E dai, siamo e tornati dai, finalmente. Quanto siamo porti. Mancava la sigla, ma ora ve la spariamo. Eh sì, ora ve la mandiamo la sigla, ma piano, quei suoni che avete sentito... Sì. Potete immaginare. Potete anche le voci immaginare. Potete immaginare. Le voci le potete immaginare. Ci abbiamo anche qua... Eccoci. E dai, è gringo. Denver, Bricobaldo. Buonasera a tutti. Quei suoni che sentivate erano quelli della CMO a Roma 2019. Grandi! Immaginavamo, si sentiva, è una grande massa di biciclette che gira per una città, chiaramente scampanellando, il rumore della catena, poco oliata o troppo oliata, chissà. Bene, bene, sei stato te, quindi deduco. Sì, con molta soddisfazione. Sei andato in bici? Grazie, sono andato con la pieghevole. Con la pieghevole, quindi immagino tu non sia partito da Firenze, ma... No, ho messo... l'ho piegata e l'ho messa sul treno e sono andato a Roma. Bravo. Vale lo stesso. Grande scelta il treno al posto della macchina. Non ci sa. No. La scelta era o il treno o partire da Firenze in bici. Ma non avendoci tempo e non potendomi assentare troppo, però c'è chi è stato ligio al dovere e partito da Firenze in bici. Sì, chi è partito da Firenze? Racconta un po'. Due o tre soggetti che a breve cercheremo di intervistare e farci raccontare. C'è chi è partito in bici con la Graziella da Firenze. Bellissimo. Ebbene sì, il nostro capo meccanico. Ah, il nostro capo meccanico? Sì, il nostro capo meccanico. L'ho visto un po' provato poi a Roma, ci credo. Cioè, lui è partito molto spavaldo dicendo: non ti preoccupare, faccio tutto io. Poi a Roma ho fatto, forse... una marcina alla Graziella mi serviva. Bello, quindi sicuramente oggi parliamo di Cemona. Sì, sicuramente. Però dopo la sigla. Dopo la sigla, dai. Vai con la sigla. Ecco, avete sentito la sigla? L'avete riconosciuta? Era in punta di pedali. E con questo poi siamo sempre qua. Denver, Gringo, Bricobaldo. Dai, raccontaci sta Cemona. Sta Cemona, ragazzi. Fin dal principio. Dal principio. Allora, preso il treno a? Preso il treno a Campo di Marte. Alle ore? Alle ore 16:30. Ok, immagino fosse il venerdì questo. Il venerdì. Sono il venerdì della Cemona, quindi sarebbe il 31 maggio, venerdì sera, la critical mass mensile classica a Roma è il venerdì alle 18:30 in piazza Vittorio e niente, quindi l'appuntamento principale all'inizio per il venerdì era piazza Vittorio 18:30. Arrivo a Roma per le 19 grazie al treno e mi dirigo con la mia pieghevolina piccina abbastanza era la mia prima volta a pedali a Roma. In pedale a Roma? Con la pieghevole la prima volta anche. Non ero molto sicuro di tornare a casa, cioè Roma non mi aveva, non avevo sentito buoni racconti da Roma, però sono ancora qui tutto intero. E niente, via di corsa dalla stazione a piazza Vittorio, 200 metri. Sono arrivato subito. E mi si presenta una massa. Già una massa enorme? Già una massa seria, ragazzi. Erano almeno 600 persone. Era una massa seria, bella partecipata. Abbiamo cincischiato lì un bel po', come al solito. La massa non parte mai alle 6:30. Siamo partiti alle 7:30, 7 qualcosa. Dopo un paio di birrini e abbiamo invaso già la città. E già quello è stato un aperitivo di quello che sarebbero stati i giorni successivi. Dove siete andati? Da Piazza Vittorio? Piazza Vittorio, abbiamo fatto un po' di giri via Nazionale. È stato impressionante. Abbiamo fatto via Cavour e poi via Nazionale, che sono le vie in genere quando abbiamo delle manifestazioni, dei cortei. Sono le vie in cui ci si passa, no? Di solito. Ecco, vederle a pedali, vedi un'altra Roma. Pedalare per Roma, in sella, in punta di pedale, Roma è diversa. Certo. È molto diversa. Si può dire però che ogni città in mezzo a una cimona è diversa. Esatto. No, vabbè, era una festa continua. La sensazione che senti è che ti sale l'adrenalina. Sale l'adrenalina e tu sei pervaso in questa massa. E poi fa l'apparizione più importante, l'UFO. L'UFO? È apparso un UFO. Che era il tema della cerimonia di quest'anno. Era il tema perché la cerimonia di quest'anno era no borders, quindi aperta a tutti e soprattutto agli exoplanetari, quindi agli certo. extraterrestri. E niente, abbiamo gironzolato un po' per la città, abbiamo fatto un po' di giri, abbiamo fatto soprattutto il temibile traforo, quello che va sotto il, oddio, il Viminale, il Quirinale, non mi ricordo. Pensa, no, io non il traforaccio, quello che va da Via Nazionale a Via del Tritone, non mi ricordo mai come si chiama. Dove hanno fatto la ciclabile pirata. La ciclabile pirata. Noi ci siamo presi tutta la strada da bravi masters, quindi l'abbiamo riconquistata. E per arrivare? Per arrivare poi all'Acrobax. Anzi, sarebbe l'Acrobax? Spieghiamolo. Il centro sociale, zona... Oddio, non so che zona è, perché a un certo punto dovete capire che nella massa perdi l'orientamento. Comunque certo. Era l'ex cinodromo, questo centro sociale, credo zona sud-ovest, ecco, più o meno, quindi zona Eur, così. Immagino una cena sociale. Cena sociale molto partecipata. Un bellissimo concerto di musica sudamericana, samba e roba del genere. Un po' di balli e poi rientro in notturna al forte. Perché il camping, il cyclo camp della Cimona era al forte Prenestino. E quella è stata una bella pedalata in notturna per Roma. È stata bella impegnativa. Erano circa 11 km per andare dall'Acrobax. 11 km impieghevole. Sì, è stata impegnativa. Siamo arrivati al forte. Il forte è un posto fichissimo. Non c'ero mai stato. Immaginate un forte con una specie di fortezza da basso nostra. Con tanto verde però. Che gioia. Occupato, autogestito. Bellissimo. Un cazzo di freddo che faceva, un umido, perché aveva piovuto, propriamente andavamo al forte, quindi ci siamo... E niente, il giorno dopo sveglia molto tranquilla, soprattutto per alcuni. Tutti gli ospiti erano al forte? Sì, tutti gli ospiti, e infatti il giorno della cerimonia vera e propria, dal forte è partita un'altra mega massa, perché il punto di partenza della cerimonia era il Parco Schuster, quindi zona... Viale Marconi, zona anche lì sud-ovest di Roma, per andare dal parco dal forte al Parco Schuster ce ne sono di chilometri anche lì, e li abbiamo fatti con una massa di partenza che era anche lì una massa molto partecipata, forse più grande anche del venerdì. Penso sì. E poi al Parco Schuster il delirio, ragazzi. Siamo partiti. Abbiamo preso d'autorità la Cristoforo Colombo, e la Cristoforo Colombo la dovete immaginare come l'inizio della Fipili, ecco, per chi non è mai stato a Roma, e quello stradone grande che va dritto all'Eur. Bene, noi abbiamo occupato sia la corsia ad andare, sia poi facendo inversione la corsia a tornare, quindi la cerimonia è diventato quasi un serpente che si mordeva la coda. Lì io non voglio esagerare, c'è chi dice 6.000, voglio rimanere sui 6.000, ma secondo me eravamo anche 10.000. Cioè era proprio una cosa. E su tutto questo volava l'alieno, l'UFO. Ah sì? Beh, sì. E qui che vuol dire? Cosa sarebbe questo alieno? L'alieno è questa presenza che è arrivata, che ha voluto partecipare alla cerimonia con la sua astronave. Ah, e sì. Volteggiava proteggendoci su di noi. Pensate. Anzi, a volte ci precedeva, a volte tornava. Casini invece? Casini nessuno. Nessuno? Grandiosi, guarda. Soprattutto sulla Cristoforo Colombo ci si aspettava il delirio. Il delirio c'è stato, ma a un certo punto è finito a festa. Cioè gli automobilisti sono scesi dalle macchine, chi ci applaudiva. Addirittura c'era una coppia di sposi che stava andando a sposarsi e si è fatto... Non si andava andando, o forse stava tornando al matrimonio. Si è fatto la foto benedire con noi, si è fatto benedire alla cerimonia. Gente che ha tirato fuori i bambini piccoli e ha messi sul tetto della macchina a guardarsi la sfilata della cerimonia. È stato bellissimo. E poi, vabbè, la tangenziale... prendere la tangenziale. È stata, secondo me, non lo so, la cimona più grande, più enorme. E poi invece la domenica al mare. La domenica al mare, ragazzi. Però c'è la pecca. Io la domenica al mare non l'ho potuto fare. No, no, perché dovevo tornare. Avevo il treno un po' prestino. Ah, ok. In realtà il treno, non era presto. È che la cimona ha i suoi tempi. Certo. Quindi immagina far partire quel numero di persone per Ostia. Mettiamo alle 11 precise. In realtà poi si è partiti alle 3, no? Ah, bordo. E allora, se tu c'hai il treno alle 6, non credo che ti fai fino a Ostia e torni in tempo. Quindi mi sono cagato in mano e niente, sono andato a treno. Senti, ma fra l'altro hai anche qualche intervista da Senti, Scemona, questa vero? È la cosa importante, perché alla Cimona di Roma ho incontrato gli UFO ciclisti. Bello, senti, allora li ascoltiamo. Mandiamo prima un pezzo magari e poi a ruota l'intervista agli UFO ciclisti. Bene. Dai, pezzaccio. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the love and sacrifice. Jamming till the jam is Benvenuti a questa nuova intervista di In Punta di Pedale. siamo alla Ciemmona e qui non potevamo mancare la Ciemmona e abbiamo beccato un UFO ciclista, che è una cosa che a noi ci è piaciuta parecchio, e volevamo sapere che cos'è l'UFO ciclismo, così lo raccontiamo anche a voi che sicuramente sarete curiosi. C'è qui con noi Cobol. Cobol. Ciao, ciao a tutti. Ciao Cobol. Allora, domanda subito a bruciapelo: che cos'è l'UFO ciclismo? Allora, l'UFO ciclismo, diciamo, è questo tentativo di ricartografare il territorio attraverso la bici. Noi partiamo dalla psicogeografia, quindi la psicogeografia dei situazionisti degli anni 50-60, ma la superiamo perché le nostre ricognizioni, la nostra cartografia alternativa si fa in bici, e quindi cambiano le unità di misura in qualche modo rispetto al passeggio, che era la tipica tecnica psicogeografica di rimappatura. Poi la psicogeografia aveva anche un impatto e un approccio molto più fenomenologico, invece noi cerchiamo di dargli una, come dire, tra virgolette, un approccio più scientifico, più ripetibile alla cosa. La cartografia alternativa del territorio è una cosa fondamentale secondo noi, perché in qualche modo da lì si parte per ricartografare anche l'immagine che noi abbiamo del mondo. Quindi la bicicletta già ricartografa da sé, perché scopre passaggi che con le automobili non si possono, ma anche a piedi, perché magari non sono percorribili a una velocità adeguata. Quindi la bici ha già in sé un aspetto cartografico, ricartografico, però non era abbastanza. Abbiamo voluto aggiungere a questo aspetto anche altre, se vogliamo, altre tendenze, altri tipi di lotte più radicali rispetto alla bicicletta, e quindi la nostra è diventata una cartografia politica, una ricartografia politica, cioè un modo di guardare al territorio con la bici in maniera completamente diversa, fuori da quelle che sono le mappe tradizionali. E poi UFO, perché in realtà queste cartografie ci servono in fondo per trovare quelle che noi definiamo le UDA contattistiche, le unità d'ambianze contattistiche, ovvero quei luoghi dove il contatto non solo con gli alieni ma anche con terrestri interessanti, altri, è più probabile. Ah, molto interessante, soprattutto in questi tempi di repressione e di omologazione. Mi fa venire più o meno, quando è nata l'idea? Quanto tempo è che siete a cartografare? Allora, l'ufociclismo nasce nel 1998, però non grazie al collettivo MIR dell'ufologia radicale, Man in Red dell'ufologia radicale, però in realtà era più un'idea, cioè era l'idea che le biciclette, sulla base della lettura di testi di Alan Watts, un ufologo, diciamo, un po' fricchettone ma interessante, degli anni 60, che descriveva, aveva una sorta di mappa che ridescriveva quelli che erano i movimenti, le traiettorie degli UFO. Leggendo questo tipo di letteratura questo collettivo si accorse che questa descrizione, se uno non pensava all'UFO, si ricordava le biciclette, e quindi una sorta di omologia tra la bicicletta e il disco volante. Ecco, quindi quando è nata nel 98 era più questo, ci furono credo delle piccole ricognizioni, ma niente di che. La bicicletta all'epoca era ancora più che un UFO, insomma. E diciamo, è stata in qualche modo riscoperta e riportata alla luce dal 2012. Non siamo ufologi, quindi gli ufociclisti non sono assolutamente ufologi, sono esattamente il contrario, perché gli ufologi sono fondamentalmente dei bollatori, cioè nel senso che hanno questa esigenza scientista e molto poliziesca di dare una connotazione all'oggetto volante non identificato, all'UFO, mentre noi siamo ufofili, se non fosse brutto il concetto, è cacofonico, quindi non lo diciamo mai, nel senso che apprezziamo e valorizziamo la non identificabilità dell'oggetto, l'indefinitezza, esatto, il fatto proprio che esista ancora in questa società totalmente controllata, totalmente omologata, come dicevi tu, ma anche totalmente mappata, esista qualche cosa di inaccertabile, che sfugge allo schema, esatto, di non coglibile e di non definibile. In questo, diciamo, fascisti e ufologi sono anche un po' i nostri nemici, perché tra virgolette ovviamente gli ufologi però fanno esattamente il nostro contrario, cioè cercano di dare un volto, un passaporto a una cosa che invece si sottrae a questo tipo di logica. Grande. No, mi hai fatto pensare, con il rimappare il territorio ho ricollegato a Resistenza Incineraica, non so se l'hai. Praticamente si occupano, è un movimento soprattutto nato a Bologna, di tirare fuori effettivamente chi c'è dietro i nomi delle vie. Ah, ok. E di in caso reintitolarle. Ad esempio a Firenze c'è una via intitolata a Reginaldo Giuliani, che era un fascista massacratore colonialista. La gente ci passa da lì ed è tranquilla. E a questo mi ricollego anche al fatto che le nostre vie sono intitolate a tizi che personalmente non, almeno io personalmente non condivido, o comunque sono in totale contrasto con la nostra Costituzione, no? Per dire, mi viene in mente a Scandicci c'è via Lanciotto Ballerini, che è un partigiano morto difendendo i compagni, un grande comandante partigiano. La viuzza, la più dimessa, è proprio quella più fuori, e invece la via principale è intitolata a Giovanni Pascoli. Ma chi se ne fotte di Giovanni Pascoli? Cioè, è più vicino e più importante un personaggio così, che è appunto Giovanni Pascoli. Niente, tutto molto interessante. Ti volevo chiedere i riferimenti per raggiungere meglio l'UFO ciclismo, scoprirne di più, e non so, vi aspettate che nascano altri collettivi in giro per l'Italia? Allora, l'UFO ciclismo è, non, diciamo, non è proprio un vero e proprio collettivo, nel senso che è una pratica. Poi è ovvio che si concretizza, si concentra in collettivi. Noi facciamo, cioè abbiamo due tipi di pratiche: facciamo delle escursioni notturne che sono un po' più folcloristiche, sono anche, come dire, un pochino più fricchettone, se vuoi, nel senso che si va in giro per la città ripercorrendo quelle che sono le cosiddette ley line aliene, perché si è scoperto che gli oggetti volanti non identificati percorrono più o meno sempre le stesse traiettorie. Noi quindi le ripercorriamo, ci portiamo del cibo vegan con noi, facciamo dei banchetti grandi vegan, ma sempre vegan, perché siamo antispecisti, e arriviamo in posti all'aperto e lì acchittiamo dei banchetti. Se poi, come dire, i piloti degli oggetti volanti identificati si palesano e vengono a mangiare con noi, noi abbiamo fatto un banchetto. Se non vengono, come fino adesso è successo, lo consumiamo noi in una, come dire, comunque con uno spirito esoplanetario, vegan, antispecista e assolutamente di accoglienza per tutti quelli che vogliono essere con noi. E poi ci sono quelle, diciamo, le ricognizioni in bici diurne, che sono quelle proprio cartografiche, e lì noi abbiamo un blog che basta scrivere UFO ciclismo su qualsiasi motore di ricerca si trova, e lì ci sono tutti i report, perché le nostre ricognizioni, quindi le nostre cartografie, sono sostanzialmente nascono proprio per creare dei report che poi andranno piano piano, lo stiamo facendo, a ricostruire una mappa totale del territorio mappato. Noi siamo soprattutto su Roma e quindi lo stiamo facendo di Roma, però siamo andati per esempio nel nord Italia, a Omegna o anche a Terni, già a fare dei chiamati da altri collettivi a fare questa cosa. E quindi, diciamo, intanto il nostro proposito è farlo su Roma. Magari nascessero altri gruppi e collettivi ufociclisti, perché, o anche non ufociclisti, insomma, comunque guidati da questa pratica ricartografante, perché, come ti dicevo, l'idea della mappa mentale, no? Farsi la mappa mentale è un principio conoscitivo di base fondamentale, quindi è proprio esattamente quello che dicevi, anche la toponomastica in questo è un sistema di controllo, no? Sì. E quindi è una mappa, oggi che è tutto mappato attraverso il satellite, e tu vedi queste automobili guidati da questi robot che non sanno dove vanno, beh, più sistema di controllo di così. Quindi la ricartografia è essenziale prima di tutto per il territorio, cioè prima di tutto mentalmente, esatto, prima di tutto cognitivamente, e poi proprio perché una volta rimappato il territorio allora diventa disponibile per essere trasformato, perché fino a quando è mappato, chiuso, censurato, come dire, non esiste lo slancio cognitivo a poterlo e a volerlo. Non è più un bene comune, paradossalmente, cioè riappropriarsi degli spazi è anche riconoscere, esattamente, cioè un po' questo. Come la Cemona si reclaim the streets, esatto. Sì, grande. Oddio, mi era venuta in mente una domanda. Pensavo quando parlavi di rimappare, dall'esperienza di ieri sera, cioè tornare a dormire qui al Forte Prenestino dall'Acrobax, mi sono dovuto affidare a una guida intergalattica, nel senso che Roma è un po' in bici, per me che vengo da fuori è una sorta di gigantesco universo. E ho scoperto che ci sono dei dei tunnel spazio-temporali che ti permettono, no, di arrivare prima in un posto rispetto a quello che ti dice Google Maps. Quindi forse rimappare significa anche trovare questi buchi spazio-temporali per accorciare le distanze. Guarda, assolutamente, una delle nostre categorie conoscitive sono ad esempio gli strappi, che non sono dei, delle scorciatoie, ma in realtà adesso diventa molto complicato spiegarlo. La teoria è un po' cervellotica che sta dietro all'ufociclismo, però ci serve, perché effettivamente quando si tratta di lavorare con la topologia, quando si tratta di lavorare con la geometria, bisogna in qualche modo scendere su quel piano. E sì, gli strappi sono esattamente quello che dicevi, sono proprio dei buchi che ci sono dentro la città e che non sono percorribili dai mezzi tradizionali, diciamo, quelli che ormai sono diventati tradizionali, le automobili, gli scooteroni o anche i mezzi pubblici, ma che tagliano, bucano la città e quindi bucano la trama spazio-temporale, esattamente quello che dici tu. Cioè, quindi questo c'è, è per questo che la bici di per sé è ricartografante, quello che diciamo, e questo in pratica lo fa più o meno involontariamente qualsiasi cicloattivista, ma chiunque va in bicicletta. E il punto, come ti dicevo inizialmente, è che se non si crea, se non abbiamo presente una teoria critica dello spazio in generale, quindi se non includiamo all'interno di questa ricartografia dei concetti più generali e anche dei concetti rivoluzionari in questo senso, ecco, questo spontaneismo della bicicletta non basta. La bicicletta in questo è un mezzo eccezionale, perché ci dà la forza, la spinta, anche solo andandoci sopra, di farci venire idee come queste, però se la manteniamo a livello così fenomenologico non basta. Quindi ci vuole una teoria critica dello spazio, come era stata in un tempo la psicogeografia, ad esempio. Grande, grazie Cobol, ci vediamo alla prossima allora esplorazione, com'è che l'hai chiamata? Solo ricognizione. Ricognizione ufociclistica. Grande, ciao, alla prossima. Grazie, ciao. E meno male che ci sono gli ufociclisti. Mamma mia, che figata, ragazzi. A me mi ha preso benissimo questa cosa dell'ufociclismo. Questa cosa del bucare la trama spazio-temporale. Effettivamente, ora, a parte passaggi, cose, però è la verità, i tempi di percorrenza urbani sono abbastanza alti. È quello che si diceva all'inizio, no? Roma vista in sé, qualunque posto vista in sé da una bicicletta. Però ecco, poi il richiamo a una visione critica del territorio, no? Quello è. È certo. Magari in posti che so, cioè sai quelle città in cui come c'è la gentificazione, c'è la turistificazione, non so se c'hai presente. No. Mai vissuto in un posto del genere. Secondo me invece Firenze potrebbe correre questo rischio. Però cioè, Firenze è anche una città, a parte sappiamo che le piste ciclabili sono quasi inutilizzabili, però c'è un servizio di bike sharing, quindi in un certo senso viene stimolato l'utilizzo delle due ruote. No, non è... Stai facendo il buonista. No, dai, non è vero. Cioè, voglio stai dire, difendendo Nardella. Non sto difendendo Nardella. T'ho visto, lo giuro, non lo difenderei mai. No, beh, ogni tanto può capitare anche di difenderlo. Cioè, io capisco il senso del bike a Firenze, che è un senso prettamente di immagine e non solo, perché poi tutto questo, l'immagine in una città che è diventato un marchio, un logo, è una cosa che conta tutto praticamente, e quindi di conseguenza anche le mobike, questo approccio green alla sua direzione, e su questo io non lo metto in dubbio. Però questo non toglie che a volte delle soluzioni che vanno in una direzione ben precisa portano anche magari a passare attraverso dei passaggi che invece possono essere non per forza negativi, possono essere positivi. Cioè il fatto magari che le persone vanno a girare a Firenze, anche uno in mobike può forare lo spazio-tempo, come te lo posso dire, ecco. Certo, no, benvengano tutti. Poi sono d'accordo, Nardella, Darione probabilmente non lo buca lo spazio-tempo, cioè, però no, diciamo che è un buco nero lui. Ormai, esatto. Se vogliamo parlare, Nardella, ce lo beccheremo per ancora un bel po' di tempo, visto che è partito in tromba con la tranvia. No, è che parlavi di immagine, no? Sì. Mi hai fatto venire in mente che potremmo passare al secondo argomento. Il secondo argomento, sì, potremmo parlare anche del secondo argomento. Prima di passare al secondo argomento, restate sintonizzati, perché prima o poi arriverà l'ufociclismo a Firenze. Allora, ma dimmi, c'è un sito? Ufociclismo.org. E dove c'è proprio una manualistica, c'è proprio una teoria sviluppata, seria, di... Ma dobbiamo prendere sul serio, quindi... Sono seri. Sì. E poi sono antispecisti. Spirito esoplanetario, sono anche esoplanetario. E quindi sono vegani. Ok, ah, vegani quindi. Quindi sono perfetti. Perfetti, dici, vegani? Sì. Ma vegani? Sono di parte, scusa. Sì, Ma perché te sei mezzo vegano? Ho capito, però sti vegani, sono stato morso da un vegano. Che coglioni, sei stato morso da un vegano, vedi, ma e appunto, quindi, cioè, sono cattivi, cioè... Ma perché il vegano come si riproduce? Si riproduce tramite morso. Non tramite morso. Sì, sì. Va bene, scusate, amici e amiche vegani e vegane. Ricorda qualcosa di più antico. Sì, sono vegano, esatto. Non abbiamo niente contro i vegani, però insomma, va bene, niente, dai. Diventate vegani, insomma. Seguite il mio esempio e diventate vegani. Secondo me stai tranquilli. Se poi siete tranquilli vegani, fate i vegani. Se siete tranquilli carnivori, fatevi un po' di senso di colpa, secondo me. Però poi fatevi anche cazzi vostri. Buona. Dai, bene. Comunque, dove andiamo? Andiamo. Questo è stato un mese. Ora, questa puntata è un po' brevina, però è stato un mese ricco di argomenti biciclettari. Ricco. Ah, sì. Intanto io, quando voi eravate, quando eri alla Cemona, era l'Acme Meeting, cioè si è svolto a Firenze, è stato un appuntamento veramente particolare. Abbiamo passato diverse cose su Radio Wombat, fra l'altro. Ci ho rosicato. Abbiamo anche registrato diverse roba che non abbiamo ancora pubblicato, per mia colpa. Però sarà fatto. Sì. Comunque, dicevi, un mese intenso. Che cosa c'è stato in questo mese? C'è stato riguardo al ciclismo, mi immagino. Sì, ma c'è stato al ciclismo urbano oppure al ciclismo con la C maiuscola? Tra ciclismo urbano con appunto la Cemona. Ma anche appunto abbiamo avuto il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia, è la 102esima edizione. E ragazzi, questa 102esima. Cos'hai da ridire sul Giro d'Italia? Senti, allora, l'anno scorso va bene, c'era la questione israeliana, palestinese. E allora sì, quest'anno cazzo vuoi? Ti pare, no? Ti pare cosa che non... vuoi? Anche qui si usa la bicicletta per rifare un'immagine. Di chi? Stavolta hanno fatto. Il Giro d'Italia era dedicato. Vabbè, a Leonardo. Vediamo da Vinci. Se mi convinci, perché comunque Leonardo non lo so. Da Vinci, vabbè, l'anno della morte, quindi che vabbè. Coglione. A Indro Mondanelli. Sono arrivati a Fucecchio per ricordare uno che si scopava le bambine ai 12 anni. No, vabbè, sì, esatto, okay. Allora, questa qui, allora, lui Denever l'ha buttata lì così, però effettivamente ci sono interviste di Indro Mondanelli che dice delle cose, perché fra l'altro Indro Mondanelli è stato per se non mi sbaglio era un ufficiale dell'esercito ed è stato per è stato in Etiopia per tanti anni. Ha comprato una sposa bambina. Ha comprato una sposa bambina e non solo, ha fatto dichiarazioni davanti alle telecamere cioè con un livello di sessismo allucinante da nascondersi sotto terra e continuava a difendere tutto, la sua scelta, certo. Negli anni 60 questa cosa l'ha fatta ai tempi dell'Etiopia, della guerra d'Etiopia, ma 30 anni dopo continuava a difendere. Mamma mia. E quindi loro hanno pensato bene di intitolargli il Giro d'Italia. Esatto. E poi, siccome non bastava ricordare, non usare bastava il Giro d'Italia per ricordare Padre Pio. Padre Pio, San Giovanni Rotondo. E quindi hanno fatto anche la tappa che da Terracina, Pietralcina, dov'è che era il prete, comunque sono arrivati a pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, dal sacro al profano. Questo giro ha incluso tutto. Cioè, ma perché fanno queste cose, secondo te? È perché la bicicletta, ragazzi, è bella. Sì, è vero, però nel senso Tramite quella tu subdolamente raccogli consensi. Sì, è vero, però si può anche dire che non è che il Giro d'Italia è organizzato dal politico di turno, è organizzato dalla Gazzetta dello Sport, il gruppo editoriale della Gazzetta dello Sport. E quindi vuol dire, quali interessi può avere un gruppo editoriale nel fare questi gesti? Solidificare un pensiero unico nazional popolare, che, cioè, dal mio punto di vista è questo. Ma forse anche semplicemente anche solo avere consenso e quindi seguito, che vuol dire per una gara essere seguita, perché negli ultimi anni mi sembra che il Giro d'Italia abbia un po' fatto delle operazioni più commerciali di marketing. Sì, ora sì, ad esempio l'anno scorso che partiva da Israele, esatto. Cioè in Israele da Tel Aviv, non mi ricordo neanche se da Gerusalemme, da Tel Aviv. Però nel senso era chiara la presenza, il perché il giro fosse lì, nel senso che lo Stato di Israele ha bisogno di ricostruirsi un'immagine in tutto e per tutto, di normalizzare quindi di alterare la la realtà di fatto delle cose, e quindi va, aveva addirittura finanziato il, insomma, l'organizzazione del giro per fare le prime 2-3 tappe lì. Però ecco, qui il motivo era molto chiaro. Però, cioè, sì, ora, hai ragione. Padre Pio, forse... chi cazzo? Cioè, ora io va bene, magari c'è qualche gruppo che... Forse dobbiamo prendere atto che l'Italia è un paese di merda, no? Dove tira il, sì, Giro d'Italia che va da Padre Pio, fa più, sì, figo che il Giro d'Italia, vabbè, che va su... Vabbè, Indro Montanelli era un anniversario, c'era qualcosa di particolare? No, semplicemente. Ah, però c'era l'arrivo a Fuscecchio. No, riguardo invece a, si era detto, Indro Montanelli, Leonardo da Vinci, c'è questo anniversario, ce la menano tutti. Esatto. Due coglioni con Leonardo da Vinci. Tutti a vantarsi, era fiorentino, era italiano, in verità non era né l'uno né l'altro, cioè, perché Leonardo da Vinci era di Vinci e Vinci e anche Firenze non era in Italia, l'Italia non esisteva. Oh, parliamoci chiaro, è inutile rivendicare la nazionalità di un tipo che era stato geniale, intanto era frocio e nessuno lo dice, dicono tutti era italiano, non era italiano, è una cazzata, non era italiano. Penso che fosse, se non mi ricordo male, il Granducato di Toscana, cioè, al massimo, la Repubblica di Firenze. Allora, cioè, che si sta a dire tu sulla bocca di tutti? Sì, no, usare gli oggetti da personaggi propaganda. Da usare, esatto, per propaganda nazionale. Per propaganda. Ma ormai da per orgoglio nazionale. Leonardo da Vinci in ogni uscita pubblica dei nostri politici viene ricordato Leonardo da Capito. Vinci con delle figuracce clamorose. Mattarella. All'evento, all'incontro nazionale internazionale delle città dell'UNESCO. Buono. Mattarella ha citato Leonardo da Vinci. Che poi appunto si ritorna, ora io questa cosa la vedo in particolare a Firenze, si ritorna sempre sulle glorie del passato, ma e si basa tutto la cultura, sì, sul rimpianto, è un passato rilucidato, messo in vetrina e venduto fondamentalmente. Firenze è la culla del Rinascimento, sì, ma è la culla del Rinascimento da quando c'è il Rinascimento, perché poi non è stata nient'altro, non vi è produzione artistica, culturale, quindi appunto ci possiamo solo vantare di quello che c'è stato. Che non è manco merito nostro. Che non è neanche merito di un italiano, come dicono, fra l'altro, esatto. E tanto meno merito nostro, ecco. E per continuare, cioè, comunque non è solo il Giro d'Italia a essere usato così, c'è stato anche il Giro di Turchia. Il Giro di Turchia, ma è un po' il Medio Oriente sta puntando su questi eventi. Ragazzi, il Giro di Turchia è impressionante. Se vogliamo parlare di nazionalismo, esatto. Mettevano la gente, cioè io sono andato per curiosità a vedere un filmato, vedevi la gente ai bordi strada, palesemente tipo le adunate fasciste, con la gente presa di peso messa lì a sbandierare la bandiera turca, perché notate che il Giro di Turchia è stato rinominato Giro Presidenziale della Turchia, vedi. In onore del grande presidente Erdogan. Però ad esempio c'è questo nel senso, rientra perfettamente nel quadro di ricostruzione di un impero ottomano, ecco, e quindi di un'identità di un imperiale da parte di Erdogan, cioè il lavoro su questo senso lo stiamo vedendo lungo. In Libia, lo stiamo vedendo in tanti posti, fantastico. Dicevi, in Medio Oriente continuano e anche l'Arabia Saudita. Eccoci. Non si è lasciata non è rimasta indietro ragazzi, però non è rimasta indietro a casa nostra. Cioè il 5 maggio 2019 a Roma l'associazione Roma Bici ha organizzato la festa della bicicletta, organizzata con l'ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita. L'ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita, fino all'altro ieri le donne non potevano andare in bici nell'Arabia Saudita, neanche guidare, sì. E poi ragazzi, l'Arabia Saudita è il primo produttore di petrolio. Primo produttore di petrolio, cioè, non è esattamente la nazione che sì, esatto, ha basato la sua esistenza, perché ora l'Arabia Saudita è un paese che fino a 40 anni fa era deserto e basta, ora ci sono i grattacieli e tutti con le macchine più potenti possibile. Esatto, ci sono dei grattacieli in mezzo al deserto. Ma infatti i giri, quando i grandi giri ciclistici che oramai attraversano quelle terre, sia il Qatar, Bahrain e così, cioè si vede quindi non è che fanno strade come possono essere le strade nostre. Viadotto. Fanno le autostrade perché sì. Non c'è altro. Non c'è altro. Non l'unica c'è altro. Strada percorribile sono delle mega autostrade. Mega autostrade. Vedi il giro ciclistico che va sì. sugli svincoli dell'autostrada, no? Sì. No? Perché tra l'altro, se ricordate, anni fa, loro erano famosi per fare le acrobazie con le macchine. Cioè, ah, sì, eh? Sì, facevano le gymkhane con i Toyota bianchi loro, sì. No? Erano, sì, sì. E ora cercano di darsi questa immagine come se la bici fosse... Guarda, forse la bici in Arabia Saudita può essere utilizzata giusto da quegli schiavi che vengono emarginati che vengono utilizzati per costruire le città. Tutto. E che poi vengono sparati e spediti fuori in questi sobborghi esclusivamente. E soprattutto, cioè, non so se sapete, forse giusto loro la usano la bici. Beh, gli viene sottratto il passaporto. Quando vai a lavorare negli Emirati o in Arabia Saudita, il tuo datore di lavoro ti trattiene il passaporto, tu diventi uno schiavo. Sì, sì, uno schiavo a tutti gli effetti. Uno schiavo a tutti gli effetti. Esatto, ci sono questi grandi sobborghi delle città dove vivono gli operai che non sono degli Emirati o degli Arabi o Sauditi. Filippini e pakistani. Soprattutto, sì, soprattutto filippini e pakistani vengono schiaffati in questi sobborghi lontani e non visibili dalle città. E poi praticamente viene mandato i pullman a prenderli, a raccattarli la mattina, li portano sul cantiere e poi ce li riportano la sera e lì conclusa in condizioni umane, igienico-sanitarie veramente disastrose. Questo è la monarchia assoluta dell'Arabia Saudita. Questo sì, scintilla oro e oro nero. Per non parlare dei bombardamenti in Yemen. Per non parlare della guerra in Yemen. O giornalisti uccisi in ambasciate. Esatto. Però con una bella biciclettata ci si rifà la faccia, ragazzi. Con una bella biciclettata ci si rifà la faccia. Fra l'altro, io ho visto, avevi mandato degli articoli, insomma, sulla questione delle donne in bicicletta, no? Che praticamente fino a poco fa non erano autorizzate né a guidare e ancora non sono autorizzate a guidare da sole, possono guidare ma accompagnate, comunque possono prendere la patente e adesso possono anche prendere la bicicletta e recarsi al cinema. Tra l'altro mi ha mandato un articolo, ora poi dovrò andare via, quindi vi dico questa cosa e poi lancio la bomba e poi scappo. Vai. E si parla male, si parlava di emancipazione della femminile attraverso l'uso della bicicletta. E questo paragone veniva fatto con l'Arabia Saudita di oggi. Io, se posso, mi permetto di metterlo in discussione, perché è vero, sicuramente è un mezzo che può aiutare in un'emancipazione, però bisogna anche considerare quando questo processo è avvenuto, cioè quando questo processo è avvenuto in Italia, la macchina non era diffusa, cioè esatto. Quindi probabilmente in un'Arabia Saudita di autostrade il mezzo di emancipazione è la macchina, non certo la bicicletta, perché col cazzo che ci vai da una città all'altra in bicicletta. Quindi secondo me è un paragone un po' forzato, sì, però se lo vogliamo fare forse chi ha scritto l'articolo era preso un po' di entusiasmo, sì, era un po' preso bene, ma sì. dobbiamo moderarlo. Bene, io direi mandiamo un pezzaccio. Dai. Facciamo andare via. Sì, io vi saluto e comunque ci sentiamo prestissimo. Ciao a tutti e tutte. Vi lascio nelle mani di Denver e Gringo. Wombat. Ciao. Ciao. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Eccoci di nuovo tornati. E quel fruscio che avete sentito è il passaggio del Giro d'Italia. Mi sono divertito a registrare il fruscio delle bici sulla strada. Ma dov'eri? Dov'eri? Ero il Giro d'Italia, questa volta è passato vicino, è passato fra la Strassigna e Montelupo. Io ero piazzato lì fra la Strassigna e Montelupo, giusto per appunto così per curiosità, ma consapevole, con molta consapevolezza che appunto andava a rendere omaggio a personaggi che eviterei, come abbiamo detto prima, insomma. Però vedi, ad esempio, quest'anno il Giro d'Italia ha pagato pegno del meteo abbastanza. Cosa è successo? È successo che hanno dovuto annullare un passaggio della tappa. Ma un passaggio storico? Storico, sì, era la cima più alta che avrebbe toccato il Giro d'Italia, che in genere viene chiamata Cima Coppi, e doveva essere la tappa decisiva, dove sarebbero esplosi i primi, no? I primi giri, i primi attacchi fra i grandi di classifica. Ed invece è stata annullata perché, dovendo passare dal Gavia, questo è il punto più alto, è il passo del Gavia. Bene, sul passo del Gavia c'erano ben 6 metri di neve. Quindi... e quindi nulla. E quindi c'erano due muri di neve tremendi che continuano a esserci anche oggi. Se guardando su internet si vede che ancora questa neve non si è sciolta, cioè si sta sciogliendo adesso. Questo e quindi ti presento il cambiamento climatico. Esatto, esatto. pieno cambiamento climatico. Ci starà che bisognerà spostare il Giro d'Italia ad altre date. Beh, ad altre date. Magari sì. A marzo, quando fa più caldo ora. Sì, sì, sì. Bene, bene. Caro Bricco, io andrei a chiudere. Bricco è andato già via. Lo scusate, risalutiamo. Lo risalutiamo, caro Gringo. Gringo. Gringo, Bricco, mi confondo. Sono molto vicini. Diciamo che siamo alla fine di questa puntata in... Compatta, ecco, è stata compattata. In poco, non lo so. A questo punto manderei un pezzaccio. Mandiamo un bel pezzo. Qualcosa a tema ciclismo? Ma avrei, diciamo, un bel pezzo intitolato Tulipani. Ah. Non so se ti viene in mente qualcosa. È un pezzo degli Offlaga Disco Pax dedicato a un ciclista olandese, appunto, fissato coi tulipani in quanto olandese. E proprio lui rimase sul Gavia, ci rimase quasi congelato. Ecco, bene, allora mandiamo tulipani, e salutiamo... Si saluta adesso. Salutiamo adesso, così vai. Lasciamo un bel pezzone ai nostri ascoltatori. Allora, alla prossima, Wombat. Ciao alla a tutti. Prossima, ciao a tutti. E a tutte. Thank you. Johan parcheggiò la bicicletta contro il parapetto ed entrò nella roulotte in braghe corte, perché fuori nevicava l'universo nonostante fosse giugno. Batteva i denti rigidito mentre i suoi due nuovi amici rimasero stupiti dalla visita a sorpresa. Gli offrirono un tè caldo domandandogli perché in quella discesa, durante la bufera, il ghiaccio e la paura, non si fosse ben coperto. L'olandese in bicicletta rispose col suo accento gutturale parole incomprensibili, e finito lo spavento si riaffacciò alla strada, mentre altri sventurati su due ruote scendevano prudenti quei tornanti in mezzo alla tormenta, protetti dal Montclair. Lui restò ancora un poco a godersi il tepore improvvisato e dopo un paio di bestemmie protestanti tornò in sella al suo cavallo verso la valle che incombeva. Pedalando su un viscido sterrato, mentre intorno era come se l'inverno in Val Camonica non fosse mai finito. Raggiunse quel passo a quota siderale mentre i fiocchi sulla testa evaporavano al contatto della pelle incandescente. E arrivato fino a lì, continuò a far finta che il freddo non ci fosse. Tiro dritto, come se Bormio stesse nei dintorni e non 40 km più in basso. In quella roulotte ci finì con un principio di assideramento 3 minuti dopo, che a scendere dopo tutto quello sforzo, sudato e bagnatissimo a 5 gradi sotto zero, indossando solamente una maglia ciclamino, ci vuole del coraggio e una certa dose di impazienza. Da stoccafisso a Bormio, l'olandese Van der Velde, quasi morto e con 47 minuti di ritardo. Ma di quel traguardo si ricordano certo più di lui che dell'altro tulipano che giunse prima in quella tappa disgraziata, o dell'americano che vinse poi il Giro d'Italia, la cui cima Coppi era un po' troppo congelata. Quel metro di neve sulle Lepontine Lettiche, affrontato con una bicicletta al posto della slitta, vale quanto l'alpinismo estremo senza bombole d'ossigeno tra le inviolate vette del Pamir.